io l'ho fatto anche il gigolò per un brevissimo periodo. Ma no, il gigolò ho fatto. Sciocca la zanzara, no. Cruciani confessa. No, mantenere no. Però... Ma lo gigolò in che senso? Che ti, cioè, hai fatto a pagamento l'amore con un delle. Un paio di volte, no, mi sono fatto pagare. Tempo veramente? Fa. Sì, sì, mi sono fatto e pagare. Chi erano questi? No, continuiamo, continuiamo. Una aspetta, volta 500 euro, devo dire. Ma tempo fa, tanto tempo fa. Tanto tempo fa. Tanto tempo fa, una mi ha dato 500 euro per trombare. Ma ragazzi. Sciocca la zanzara. Ma pazzesco. Ma che pazzesco. Ma che schifo. Ma lo fai ancora, Peppe? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cosa si navosa? Sono di Sant'Eramo. Sono di Sant'Eramo, in provincia di Bari, un paese che si basa sulla carne. Noi viviamo di carne, produciamo carne, macelliamo carne. Chi adotta un agnello licenzia un Sant'Ermano. Chi adotta un agnello licenzia un Sant'Ermano. Chi adotta un agnello licenzia un Sant'Ermano. Sant'Eramo in Colle. Siete mai stati in Puglia? Venite a Sant'Eramo. Ogni angolo di strada c'è una macelleria, si sente il profumo. Io sto per tornare a casa dopo una giornata. Le vogliamo chiudere tutte? Andiamo, le vogliamo chiudere tutte? No. Rivolgiamo un pensiero a Casteltesino. Rivolgiamo un pensiero a Casteltesino, a tutti gli amici. Come chi è? Cos'è, semmai? Posto straordinario. Rivolgiamo a tutti i lavoratori di Casteltesino. Rivolgiamo. Dove abiti tu, Giovanni? Sant'Eramo in Colle, cazzo, siete tonti? Vaffanculo a tutte le vegane. Ciao, state lo boom. Ciao, state lo boom. Ciao, state lo boom. No, io ti ho parlato dolce e semplice. Ti ho fatto gli auguri di Pasqua. Allora ragazzi, tutto questo delirio pro-animalista, Boldrini qualche ora fa nel senso di ieri. Poi ha aggiunto anche che diventerà vegetariana entro la fine della legislatura. Ma che cazzo c'entra questo? Scusa. A me questa cosa non me ne frega niente. Come dire, no, ma ho capito, ma io non Non è che mi posso dirti una cosa, mi cambia la vita sapere che la terza carica della storia diventerà vegetariana. No, ma perché questa cosa temporale? Aumenta il mio stipendio qui. No. La tua vita cambia materialmente. No, dai, chi se ne frega? No, d'accordo. Cioè, però a me incuriosisce questa cosa qui. Sì. Cioè, dice divento vegetariana entro la fine della legislatura. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, prometto che entro la fine della legislatura. No, ma perché sono incuriosito? Entro la fine della legislatura, ma che cazzo è una cosa? È come a tempo. Dire abbasseremo le tasse entro la fine, ma chi se ne frega? È una roba diversa. No, quello però, è importante, no? Riguarda appunto, tutti. No, quello dico, quello è importante. In tutto questo delirio, prima Berlusconi, poi la Boldrini, che sono nervoso, eccetera, eccetera. Oggi, no, ma che nervoso. Finalmente uno, devo dire la verità, finalmente uno che ha i coglioni. Finalmente uno che non si abbassa a questa propaganda, non vuole fare propaganda con gli agnelli. L'avrà fatta e l'ha fatta su altre cose, certamente. Anche lui è un grande venditore, spesso anche di fumo. Il signor Renzi, che ieri ospite a 8:30, mi sembra. 8:30, signor Renzi, mi sembra di sì. Sì, certo. E di fronte alla domanda, visto Berlusconi con l'agnello, la Boldrini, eccetera, eccetera, risponde in questo modo molto semplice: guardate, io non sono fiorentiniano, non me ne frega assolutamente nulla. Abbiamo criticato più volte qui Renzi, sicuramente anche lui. Però dice una cosa semplice: che la normalità non fa la propaganda facile con gli agnellini belli addosso. Perché poi quelli che fanno la propaganda con gli agnelli belli, poi chissà perché fanno la propaganda con gli agnelli tutti bianchi. Tutti bianchissimi, no? Certo. Tutti belli e bianchi, non sono sporchi. Non sporchi. Come di solito sono, no? Di solito sono sporchi. No, lo fanno con gli agnelli tutti puliti, bellissimi, candidi, no? Quella non è propaganda, quella è la battaglia per i diritti degli animali. Quello che faccio io è solo spettacolo, è solo far parlare di me stesso. Cioè, tutta una cosa incredibile. Lasciamo perdere, va. Ecco, ma lei, a differenza di Berlusconi, a Pasqua mangerà l'agnello? Sì, nel senso che è una tradizione familiare a cui non vengo meno. Io non amo moltissimo l'agnello. Credo che quando la politica arriva al punto di strumentalizzare anche le scelte personali, che rispetto, perché se uno è vegetariano o vegano merita tutto il nostro rispetto, però è anche vero che ciascuno deve fare le proprie scelte senza pensare di strumentalizzare con la politica anche il pranzo di Pasqua. Devo dire che ha perfettamente ragione, certo, signor Renzi. Ha perfettamente ragione, Renzi, certo. Un altro che mi stupisce è Specchia, che ovviamente è una, l'ottimo Francesco Specchia. Credo libero, che sia dire. Lui, credo che sia lui. L'ottimo, non so, Specchia. Ma non lo so se è ottimo o non ottimo. A me non me ne frega un cazzo di tutte queste lecchinate ai giornalisti. Ma che me ne frega a me? Ma io lo Specchia. Conosco, dico ottimo perché le è un amico. Le grida degli agnelli somigliano a quelle dei bambini. No. Ti giuro. Se ha detto così, credo che sia lui. Specchia è una coglionata. Ma dove l'avrebbe detta sta roba? Non lo so, senti. Siccome ho assistito alla macerazione degli agnelli, io l'ho anche scritto, devo dire che è una cosa bestiale. Sì, poi le grida dei belati degli agnelli assomigliano moltissimo alle grida dei bambini, come dicevano anche molti scrittori. Molti scrittori, sì, molti scrittori. Beh, questo però forse è anche vero. I belati degli agnelli somigliano a quelli dei belati. Ma perché bisogna fare questi paragoni anche vergognosi? Ti ricordi il film The Sound of Silence? No, ma se tu fai... Li senti ancora clarisco gli agnelli, ti ricordi? Sì, ma se tu fai, sì, certo, ma se tu fai un paragone, significa metti sullo stesso piano. No, però è evidente, però allora, scusami, è evidente che se anche tu andassi in un macello di agnelli, poi non ci ti verrebbe stato più. Ma chi l'ha ma detto? Ma io non ci vado perché ma non io mi... vedo tutto come cosa, ma... come una cosa naturale. Ma no, ma non mi vergogno di quello ma che mangio. In un macello non mi vergogno agnelli? Di quello che mangio. Ma non mi vergogno. Io, infatti, mi piace molto e lo mangio. Dico che se vedessi una macellazione di un agnello, sicuramente non mi farebbe nessuna. Non cambierei opinione. Poi, se qualcuno cambia opinione, va bene, per carità. Cioè, a me non me ne frega niente. Forse scelte... sono ipocrita, non lo so. Però, sai, allora, forse... Gianmanco, come sapete, forse qualcuno lo sa perché in realtà la poi non Gianmanco, è. Sì, ma la conoscono solo gli addetti ai lavori perché sì, va bene, non credo che sia, come dire, è una deputata di Forza Italia. Non spicca, diciamo. Beh, no, una giovane è una deputata di Forza Italia. Vabbè. Dice Berlusconi è andato al McDonald's, ma non l'ha fatto per fini elettorali. No. No, per fare un'indagine sociologica. Sociologica, ti giuro. Sì, è un sociologo, ragazzi, Bauman, è una cosa, come Bauman. Una cosa incredibile, dai. Da McDonald's Silvio Berlusconi si ricorda quella foto, ha no? Ha preso una spremuta d'arancia. Ah, ecco, quindi niente burger, niente e carne. E poi credo che lui allora... studiasse un po', come dire, la sociologia del fast food, quindi era lì anche per curiosità. Allora, due cose. Uno, non è vero. Seconda cosa, se si mette oggi, 2017, Berlusconi a studiare la sociologia del fast food, mi sembra che sia passato un po' di tempo. Certo. Mi sembra anche un po' troppo dagli anni tardi. 80, dagli anni un po' 80 troppo tardi. Sì. Sì. Poi uno dice che non sente le puttanate, capito? E la stessa Gianmanco che dice che io sono di pessimo gusto, vergogna per quella tu? Immagine. Sì, sì, beh, sì, questo sì, però è condivisibile, no? No, non è affatto condivisibile. uno lo può dire, naturalmente io non sono d'accordo, sì, di pessimo gusto. Sì, perfetto. Sì, di pessimo gusto. Va bene, uno può dirlo. Minacciano di morte anche, per cui figuriamoci, no, cioè è una cosa minore pazzesco, questa cosa qua. È pazzesco. Provocazione di Cruciani ieri sera che posta sul suo profilo Twitter tre agnellini che decisamente, e lo vedete dalla foto, non sono stati salvati. Posso Renzi dire una appunto cosa? Ne ha parlato. Cruciani, prego, di pessimo senatrice. Gusto, me lo faccia sì, dire. No, Cruciani veramente perché... di pessimo gusto. Cruciani semplicemente sì, una riflessione sì, veramente una di pessimo gusto. Quella foto con gli agnellini. Veramente senatrice. Si dovrebbe vergognare. Allora, l'altra che parlava, la cosa disgustosa, è la senatrice sì, De Petris. Chissà perché, sono tutti ah, d'accordo. Loredana, ottimo, De sì, Petris, che apprezza il gesto di Berlusconi contro gli agnelli, vi siete ridotti sì, ad apprezzare Berlusconi con gli agnelli? Cioè, signora De Petris, vi siete ridotti ad apprezzare Berlusconi che fa quell'immagine con gli agnelli? Questo dico solo. De Petris, dei Verdi, vi siete ridotti ad apprezzare Berlusconi? Però ormai questa è diventata una battaglia politica. Noi possiamo sorridere qua. Cioè, gli animali ormai sono entrati nel dibattito politico e devo dire, tu l'hai intuito forse per primo ancora qualche anno grazie, fa. Grazie compagno, no, grazie questo compagno, senza ombra di dubbio ha intuito questa sì, grande allora, tematica popolare. No, ma lo dico senza ironia, tanti anni fa. E il fatto che gli animali siano entrati nel dibattito politico più degli operai che perdono lavoro, a me un tantinello fa girare quelle cose i cabassi, che si chiamano i coglioni. Tecnicamente coglioni, un po' tecnicamente me li fa girare. Che c'è, Robè, D'Agostino che mi chiama, sono in trasmissione. Mandalo in onda, mettilo in onda subito. No, che metto in trasmissione. Metti in onda subito, Presidente. Allora, servizio di studio aperto, i rom di Lecce, questa è la grande notizia, si sono spostati sul mare occupando un altro stabile. Sembra incredibile, ma sì, quelli che sono andati via, sì, non quello che deve tornare in Romania, ma quelli che sono andati via dalla masseria, sì, di Lecce, che noi abbiamo contribuito a liberare, sì, potremmo dire che oggi è il giorno della liberazione, meglio del 25 aprile. Mi pare francamente. Che giorno è oggi? Mi pare francamente masseria 13 libera, aprile. 13 aprile, giorno della liberazione dai rom, no, dalla masseria di Lecce. Capirai che notizia. Si sono spostati su un altro stabile, pare. Era libero lo stabile. Ma che cazzo ne so. Facciamo un'altra trattativa. Da ieri alcune famiglie con bambini al seguito si sono trasferite a pochi chilometri da Lecce sulla costa, occupando un rudere fronte mare e suscitando nuovo allarme tra gli abitanti delle altre ville, che nel frattempo hanno chiamato le forze dell'ordine. Da ieri hanno preso gli infissi da un altro appartamento e li hanno rimessi a questo qui dove l'hanno occupato. Lei è sicuro di questo? L'ha visto? Sì. Più una Tania, meno Parenzo. Più una Tania, meno Parenzo. Traffico. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presento La Zanzara. Crucia, c'è rotto cazzo! Cruciani, sei solo un senza coglioni pezzo di merda. Parenzo e Cruciani, siete due pezzi di merda. Schifosi, lecchini servi dei padroni. Brutti maiali. Tanto il giorno del giudizio arriverà per tutti. Merde! Naturalmente. Allora, come sapete, oggi Berlusconi ha venduto il Milan ai cinesi, caro Parenzo, sì, per carità, operazione legittima, ha incassato un sacco di soldi, 700 milioni di euro da quello che si sa, bene per lui. E c'è da notare una cosa, noi che andiamo sempre a ripescare le cose di archivio, no? Non tanto tempo fa, ma poi in realtà c'è anche una parte di americani che hanno contribuito, Berlusconi diceva, sentite bene perché il volume è basso ma significativo, ma i cinesi sono quelli che mangiavano i bambini, no? I comunisti cinesi, figuriamoci se vende ai cinesi. Non lo vende, Simba! Non lo vende! Dicevo che i cinesi comunisti mangiavano i bambini. È vero, perché hanno avuto una grande carestia. I bambini morivano perché erano le donne, non avevano il latte. E allora, per sfamare gli altri figli, li facevano bollire e li mangiavano. E io devo dargli il Milan. E io devo dargli il Milan. E gli ha dato. E gli ha dato. Aspetta un attimo, aspetta. I will be the greatest president that God ever created. Gli Stati Uniti hanno sganciato una bomba sull'Afghanistan orientale, nella zona di Nangarhar, con l'obiettivo di colpire l'ISIS. La madre di tutte le bombe, ordigno potentissimo, prima volta utilizzo in combattimento. Una bomba che pesa quasi 10 tonnellate. I will be the greatest president that God ever created. Aspetta, aspetta. Look, I'm really rich. Allora, andiamo ad Adriano, provincia di Sassari, la Sardegna. Quanto mi piacciono gli ascoltatori che chiamano dalla Sardegna, non so perché, vai. Ciao, Cruciani. Dimmi. Ascolta, io ho chiamato, volevo raccontarti che mi sono mangiato un gatto con gli amici. Ma quando, amico mio? Imbecille. Imbecille sei tu. Dimmi, Adriano, dimmi, raccontami tutto. Piacere, Parenzo. Era il mio compleanno, volevo organizzare una festa con gli amici. Sì. Imbecille. Siamo andati, abbiamo preso un gatto. Sì. Imbecille. L'abbiamo macellato contro la cacciatora, era squisito. Imbecille. Allora, ma è una storia vera questa roba qua? Oppure ti stai imbecille? È verissima. Allora, in Sardegna tu avresti con degli intanto amici. Non si può prendere un gatto e macellarlo così, bisogna saperlo fare. Cioè, dai, questo quanto, è un no, non si può perché è illegale. Ma quanto è tempo illegale, fa? Ma devi trovare anche il macello che lo sappia fare. È stato 20 anni fa, è prescritto. Ma 20 anni fa è prescritto. Fa. Ma lo rifaresti anche adesso? Ah, ci picchia, certo, era cioè buonissimo. Cioè, te rimangeresti il gatto un'altra volta? A voglia. Perché? Ma perché questa passione per il gatto? Evidentemente l'hai mangiato in questi 20 anni, l'hai mangiato ancora allora? Sì, è capitato anche. Cioè, tu sei un mangiatore di gatti? È buono, è meglio del coniglio. Vabbè, adesso, amico mio, io non lo so, non ho mai mangiato il gatto, ho mangiato una volta il cane. Che hai mangiato il cane. Ho mangiato il cane, il cane è dolciastro, dolciastro. Una volta in Corea l'ho fatto, ma per lavoro, ma per carità non mi vergognerei. Ma che uno mangia il cane per lavoro? Io invece l'ho fatto per piacere. Sì, per carità, ma come si mangiano gli agnelli? Per piacere, cioè voi avete sfidato un tabù sostanzialmente, perché nella società nostra nella quale viviamo il cane e il gatto sono animali domestici. Io quindi voi avete violato un tabù. Voi avete violato un tabù dell'Occidente. Anche il maiale è un animale domestico, scusami, anche il cavallo è un animale non è domestico. Considerato tale, scusami, nella Nicola, civiltà occidentale. No, Nicola, Adriano, scusami. Con quanti amici avresti mangiato questa prelibatezza, quella che tu consideri una prelibatezza, evidentemente? Sono stati una 25. 25 amici, per quanti gatti avete fatto? Scusa. Uno. Cioè, che vi siete mangiati? Il pezzettino così sì, piccolo? Sì, un pezzo, beh, certo, non è che ammazzano una mandria di gatti. Allora, un gatto per 25 uno, persone, così, per sì, giocare, per assaggiare com'era. Ma dove l'avete preso sto gatto, poveraccio? In una campagna di un mio amico. Cioè, preso così, ammazzato e macellato. Esatto. 20 anni fa, dunque tu dici, lo posso dire, tanto è prescritto, che cazzo mi frega. E gli altri gatti, quanti gatti ti sei mangiato in tutto? No, dai, non tanti, c'è stato uno in tutta la vita. Beh, un pezzo qua, un pezzo là. Ma come, hai detto che ne hai mangiati altri in questi 20 anni? Sì, ma non è che ne mangio un gatto intero, Crucia. No, perché d'accordo. Tu non ti mangi un agnello intero. No, io d'accordo, ma quanti gatti hai fatto fuori in tutto questo tempo? Poi come l'avete fatto fuori sto gatto? Gli ho schiacciato la testa, perché poi gli tienilo il gatto. Che schifo. Guarda, amico mio, che qui ti potrebbero denunciare. Qui ci sono ambientalisti all'ascolto, animalisti all'ascolto, che sono pronti a sporgere ma denunzia. Ma non solo quelli, ma... A me vogliono... Perché? Un coglione, che è uno di un'associazione, anche una persona con cui si battaglia spesso, ma in questo caso un coglione, per questa cosa è un coglione, un certo Croce, non so come si chiama, di un'associazione che pare anche inesistente come l'AIDA, eccetera, vuole portarmi in tribunale, l'AIDA. Mi vuole denunciare per maltrattamento degli animali, per quella cosa di ieri. Amico non mio, hai maltrattato ho comprato animali, quelle teste in macelleria, ma le vendono legalmente esatto. In macelleria, testine di agnello, andate nelle macellerie e le potete comprare tranquillamente. Non in tutte, si possono mangiare. Quanti gatti hai ammazzato in tutta la tua vita? Ma 4-5 li avrò fatti 4. Fuori. L'ultima volta quando è stato, quando l'hai cucinato? Ma 5-6 anni fa. 5-6 anni fa, amico mio, che ti devo dire? Secondo me io lo consiglio, è buonissimo. Lo consigli, vabbè, lo consigli. Che ti devo dire? Non si può fare però, lo sai che non si può fare, io sono contro ma tutti. Ma non si può neanche occupare le case degli altri, oppure i dom li occupano. Vabbè, ho capito, adesso non è che è tutto uguale e non è che siccome a illegalità si risponde con una cosa con un'altra illegalità. I gatti non si possono mangiare, io non è che posso sfidare pure. Sì, ma se io mi mangio un gatto non prendo la casa a nessuno, non rovino nessuno, Ma sì, hai ammazzato un gatto che non si potrebbe ammazzare in teoria, cioè è protetto, no, da quel punto di vista. Tu ne hai mangiati 5-6. Vabbè, ragazzi, vi devo fermare, qui ci sentiamo dopo, dai. La mia specialità è lo squirting, amore. Beh, amica mia, Parenzo! Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Bruciare, cos'è lo squirt? Mi visita un dottore, mi disse non è niente, è nettare d'amore. No, io faccio altre cose. Io cago addosso ai clienti. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. In quella masseria c'era la loro vita, ma voi li avete mandati via. In quella masseria le loro storie, ma voi li avete cacciati via. Maledetti, resta soltanto un carrello verso la Romania. Siamo ad alti livelli qua, eh? Che se ne sono andati questi zingari di merda da quella masseria, meno male. Luciani, a Pasqua mi è mangiare un capietto con tutti i peri, proprio tutto completo me l'hai mangiato. Sì, la signora Boldrini ieri da Zucconi mi segnalano, era ospite dove ha annunciato che diventerà vegetariana. Ovviamente non le è stato contestato nulla, nulla. Una specie di monologo. Ma cosa doveva essere contestato? Ma tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto. Tra le Berlusconi avete salvato un gregge di ovini, no? Siete stati bravissimi. Beh, speriamo di averne salvate molti di più, perché quello era un esempio che doveva ispirare molti altri a fare la stessa cosa. E sì, che oggi sono arrivate con queste due agnelline di insomma due mesi, per cui già più grandi del tempo nel quale si uccidono gli agnelli, quindi l'avevano già scampata in un certo senso, quindi quando le ho viste insomma mi è venuto in mente di adottarle, chiaramente adottare, ecco. Che vuol dire? Vuol dire insomma riuscire a coprire i costi, non so, del veterinario, delle cose delle medicine, delle cose da mangiare, farsi carico delle poche spese che può avere chi ha l'allevamento per riuscire a salvargli la vita. Se non ce lo spiegava non capivamo effettivamente. Comunque è una specie di adozione a distanza, no? Le vuole tenere lontane perché il gatto non va d'accordo. Ancora. In rete gira invece l'adozione che è un po' truffa, cioè adotta la pecora vuol dire non salva la vita dalla macellazione, ma prenota il cosciotto. Allora lei capisce che io mi sono imbattuta in passato in una di queste cose e sono rimasta inorridita, inorridita. Prenota il cosciotto, non sì, prenota il cosciotto. E c'è da ridere nel prenotare il cosciotto, non ho capito. Basta, comunque. Poi quando crescono sono anche difficili un po' da distinguere. No, aspetti direttore, io vado, io vado, già gliel'ho detto, e senza preavviso. Ovvio, se no preparano tutto. E poi io ho fatto le foto, ho fatto anche il video, quindi le ho ben in mente. Secondo chi è Gioia, chi è Gaia. Mia figlia Anastasia è diventata vegetariana. Poi intorno ai 18 anni io ho visto che fumava le sigarette. Ora io detesto il fumo. Allora abbiamo fatto un patto. Io ho detto: Anastasia, guarda, tu bisogna che smetti di fumare perché ti fa male il fumo e questa è una cosa non da ragazza intelligente. E lei mi ha detto: va bene mamma, allora io smetto di fumare ma poi tu diventi vegetariana. Beh, bel patto. Allora lei ha smesso di fumare. E lei? Ma io non sono ancora. No. Vero, non sono ancora vegetariana, quindi adesso il mio impegno è di arrivare veramente a fine legislatura, mettiamola così, diventare vegetariana. Ogni commento è superfluo, ogni commento è superfluo, è superfluo. Allora, Islam da Roma, questo si chiama Islam, come si chiama questo qua? Islam? Sì, pronto. Come ti chiami? Non ho capito. Islam. Ma come fai a chiamarti Islam? Sono di origine egiziana. Islam ti chiami, di nome Islam. Bel nome, dai, bel nome. Vabbè, tu essere muslim allora, essere muslim. Per forza, cosa vuoi che sia? Appunto, lo sapevo che partivi subito con sta battuta. Vai, sì, tu sei più romanaccio che islamico in realtà, più romanesco. Sì, sono nato qui. E ti chiameresti quindi Islam. Sei cittadino italiano? Sì, bravissimo. E bene, ti chiameresti Isla, ma vanno, forza. Certo, abituati, Isla, abituati. Non solo Marco, Luca, Giovanni, Antonio, Islam, ma c'è anche Islam, Abdallah, Kabakebji. Ci sono ma tanti. Ma non esiste il nome Islam, sì, è un'invenzione di questo qua. Islam. No, ma Islam, come è un'invenzione? Guarda, Islam. Potrei pure con una foto, però non c'è. Vabbè, Islam, dimmi, dai. Islam, dimmi, dai. Comunque, guarda, io chiamo per due riflessioni. La sì, prima, sì, riguardo la due riflessioni. Che non me ne frega niente, che volevi dire? Qua leggo. La Boldrini, uno che fa tanto l'indignata perché l'altro giorno hanno parlato per il discorso delle donne rumene, eccetera, eccetera. Invece si dovrebbe indignare tanto per il discorso contro programmi come Quinta Colonna e dalla parte vostra. Dalla vostra parte, vabbè, poi? Dalla vostra parte. Vabbè, ma quelli fanno il loro lavoro, non rompete i coglioni, dai, forza, poi? Ma no, veramente, perché poi Ma perché non vai, pure, non vai pure tu tra il pubblico di dalla vostra parte? No, non ci vado perché là veramente stanno... Non è che danno i numeri, di più. Vabbè, allora presto. Islam, avanti. E la seconda riflessione è un po' rivolta contro di te, perché... Sì. Già che, ecco, hai sentito il nome Islam, hai detto, ah, quindi tu saresti muslim. Beh sì, perché ti vergogna essere muslim, ma non no, ho capito, però, ti vergogna essere islamico? E allora, no, musulmano, sei musulmano? Assolutamente. Preghi? Però preghi? Non vuoi, cioè, di la verità. Preghi o no? In una maniera... Io non prego. Non preghi, allora non sei muslim, non sei muslim, dai, sei uno all'acqua di rose, così. Io il discorso è quello di base, che tu lo dici in una maniera ironica, che... Lo dirai pure in una maniera ironica, perché vabbè, allora dice io scherzo, però dietro di te vengono non si sa quante centinaia, migliaia di debosciati a fare che? Io li chiamo che ti seguono, che il muslim è detto da te vuol dire che quelli sono inferiori. Ma chi l'ha detto? Allora, ma che ne sai tu? Ma non è affatto, ma non è affatto allora, così. Ti faccio un esempio concreto, no? Ho degli amici italiani che seguono anche loro la radio, perché veramente fate essere allora bravi. Loro ormai la cosa comica loro è ridire muslim. Muslim. Tu loro, essere muslim, tu essere muslim. Stupendo, tu essere muslim. Ma qual è allora, il problema? Io che ti vergogni? Non ti vergogni? Dunque, tu essere muslim. Non vergogno, tu non essere muslim, tu non essere romano. Romano. È un sinonimo di presa per il culo. Ma comunque, quando mai? Ma ragazzi, ma basta con sta storia di seriosità, no, eccetera. Prendetevi un attimo in giro, ma io pure voi. Lo dico proprio per presa ma diretta, tu essere per... muslim? Tu è... non sei muslim, ma sei, sei romano, sei, non sei praticante, non, romano, non dici manco una volta Allahu Akbar durante il giorno, non lo dici mai, no? Non lo dico, però non lo dici, ma che muslim religione sei? Ma che muslim sei? La tradizione. Ma che tradizione? Si mettono in questo periodo a fare la penitenza. Vabbè, fanno, ciao. Lucia da Roma, vai, Lucia da Roma. Bene, vedi, integratissimo. Ciao, senti, io volevo dire solo una cosa, cioè che ognuno può mangiare quello che vuole, ma a Parenzo non si può permettere di dire a quello che mangia i gatti che è un cretino. Se lui è il primo cretino, che non certo si mangia manco un calamaro perché un libro scritto 3000 anni fa gli dice che non può farlo. Non può mangiare non ha torto questa qua. Non può mangiare i gamberi, non può neanche il maiale, non mangio neppure il maiale. Non ha torto, vedo che lei è ben... non ha torto la signora Lucia, non ha torto la signora Lucia, non ha torto quella sul cibo, non ha torto, è una mia libera scelta dovuta ai miei dettami religiosi. Cara la signorina o signora Lucia, cara la mia signora Lucia, io non rompo le palle a persone che mangiano il maiale. A chi mangia il maiale, non dico, dico semplicemente che chi mangia il gatto e il cane, che da noi sono considerati animali domestici e quindi per legge anche non mangiabili, chi lo fa è un cretino patentato. Allora, ecco, io dico questo che chi dire non mangia le ostriche, che sono pure afrodisiache, perché un libro io non ho bisogno, non farlo, è un cretino, signora è mia, cretino. Non ho bisogno di mangiare le ostriche per avere reazioni afrodisiache. Non capito, è che cara gira voce che lei sia così particolarmente attivo, quindi gira voce possiamo... dove? Da chi, cara la mia radio, Lucia, la mia questa simba- in questa radio, perché c'è una diffamazione continua in questa radio che partì già dalla signora Naike sua... Rivelli, è una diffamazione continua che io non posso in questo momento portare delle prove concrete, non va bene, posso dove farlo. Andiamo? Paolo da Milano, vai, ciao Lucia, Paolo da Milano, vai. Si diverta, cara, io, si diverta. Io in questo periodo godo come un animale, godo perché nel mondo in questo momento a Milano e Lombardia, in Italia milioni di animali sono ammazzati per essere mangiati. I vegani se la devono adesso non c'è bisogno di godere. Sì, ma non c'è bisogno di godere perché gli animali vengano ammazzati. È un dato di fatto, nessuno gode. È un dato di fatto. Sono uccisi gli animali perché noi li mangiamo. Volete accettarla questa cosa o no? Ma allora io sono uno che la mattina mangio la brioche vegana non perché mi piace, ma perché se arriva al vegano non la trova, hai capito? Beh, Paolo, questo è top, questo è top, questo è top. Devo dire che questo è il top. Lei però è un po' come quel marito che si taglia le palle per fare un dispetto alla moglie, cioè lei è uguale in questo perché non ha... Tolgo la brioche vegana per non farla mangiare. La mangio io, così il vegano non la trova e non mangio la brioche. Anche ogni tanto vado in un ristorante mangio il piatto vegano. Ma perché? Sì. Vabbè, è una stupidaggine. No, non lo faccio per quello. Lo faccio così perché io magari le verdure sono buone. Tu lo fai per rompere i coglioni vegani. Tu sei oltre Cruciani. Sei un paladino del crucianesimo oltranzista. Spero che si stiano incazzando. E poi sei il Falun Gong del crucianesimo. Non hai idea i messaggi che ho ricevuto. Sono incazzati come bestie. Mi minacciano di morte. Mi minacciano di morte. Sei arrivato. Fine, non hai più un cazzo da dire. A parte che ho da dire per fortuna delle cose ogni giorno, altrimenti mi ritirerei a vita privata. Primo questo. Seconda cosa, amico mio, le campagne le fanno gli altri contro gli agnelli. Sì, io sono a favore del fatto che possiamo continuare a mangiare solo questo. Sono gli altri che fanno le campagne. Io non faccio nessuna campagna. Se smettessero di rompere il cazzo ai produttori, agli allevatori, io non farei nulla. Sono stato in Indocina, ho girato il mondo, ma si mangia di tutto. I gatti in Cina, è molto meglio del coniglio. Aspetta, gatto, Paolo, che torno da te, aspetta, fermo là. Sì. Per il tuo cervello, scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Quando metti su famiglia ci sono alcune regole che vanno seguite. Esci dalla città. Sii un genitore severo. Metti la testa a posto. È tempo di crescere. Ma fallo a modo tuo. Nuovo GLA. Grow Up. Sospensioni off-road per prestazioni davvero SUV. Fari LED High Performance e navigatore tablet da 8 pollici. Scopri l'offerta negli showroom e su mercedesbenz.it. Tagliatelle all'uovo di Campofilone Fiorfiore Coop. Fino al 16 aprile a soli 1,79 euro. Trafilata al bronzo con semola italiana. Il meglio della tradizione marchigiana. E ora cucinarla è tradizione anche a casa nostra. Pasta Fiorfiore Coop. L'eccellenza al giusto prezzo. La Coop sei tu. Il solito traffico. Il solito ufficio. Il solito capo ufficio. Ma non è che sei tu quello che fa sempre le stesse cose? L'avventura è la nostra routine. Scopri i Jeep Freedom Days. Ad aprile, Grand Cherokee, tua con Jeep Free a interessi zero. Oggi paghi la metà, nessuna rata per 2 anni e poi sei libero di restituirla. Salvo approvazione FCA Bank. Info e condizioni su Jeep Official. Fare impresa in modo nuovo ed efficace. Le soluzioni concrete per lo sviluppo economico e imprenditoriale. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del paese che hanno partecipato all'evento di Intesa San Paolo Sharing Italy. 6 azioni per rilanciare l'impresa. Appuntamento su Radio 24 ad aprile con un ciclo speciale di voci di impresa ogni domenica alle 21. State ascoltando un programma offerto da Smart People Drive Different. L'auto e tutti i servizi in un solo canone mensile. E non ci pensi più. La Zanzara. Cruciani, amico mio, anche qui in Corea, carne d'agnello a volontà, cotta in marmitta mongola, secondo l'antica tradizione risalente a Gengis Khan. Siamo al top. Cari amici miei, quanto mi sto divertendo oggi con le reazioni alle 3 teste di agnello. Fuori misura, è bellissimo stare in ufficio, vorrei tanto essere con voi. Now tell me, do you love me? Allora, una mi scrive: quanto ce l'hai piccolo? Un'altra, soprattutto le donne che scrivono, le auguro di imbattersi in un cannibale, ammazzati figlio di Troia, ti auguro con tutto il cuore di fare quella fine. Sempre donne, sempre donne, incredibile. Un altro mi scrive: guardati le spalle, stai attento, verrà il giorno che ti sbuco da dietro e pagherai per tutte le schifezze che hai fatto. Quando prima o poi verrai licenziato, poi rimarrai come un morto di fame che sei per le strade e magari piangerai davanti alla TV. Tale Alfio, uno che si chiama Alfio. Speriamo di no. E così via. Cioè, il fatto, non possono sopportare l'idea della libertà di qualcuno che la pensa diversamente da loro, che la pensa diversamente da loro e che a modo suo, attraverso i suoi mezzi, cerca di rintuzzare una propaganda vergognosa che viene dal capo dell'opposizione, uno dei capi dell'opposizione, e dal presidente della Camera, per non parlare degli altri. Io faccio il mio mestiere, gli altri fanno quello che fanno. A me minacciano di morte, gli altri in pace. Allora, un'altra: sei veramente un pezzetto indegno di essere padre. Indegno di essere padre. Oltre ad ammazzarli, li deridono. Spero che un giorno vi troviate voi nella merda con gente che ride di fianco a voi. Pazzi, psicopatici, anaffettivi totali. Con tutta la gente sterile, questi purtroppo si moltiplicano. Se parla di ma noi, tua figlia, sì, ma tua figlia ti maledirà in fretta. Ma come si permette? Ma questo è il tono, capito? Questo è il i pacifisti vegani. Denunziare ma tutto, che... raccogliere tutto in un bel fascicolo, spedire alla procura più vicina, denunziare tutto per minacce. Beh. C'è un oncologo dermatologo. Sì. Presidente del gruppo L'Inferno del Vegano, certo, non è uno L'inferno. Che ci va leggero. Beh, L'Inferno insomma, del sì. Vegano, vabbè, ma ce l'ha presa per il culo, ci sta, no? Simone si chiama, non so se posso dire il cognome. Possiede 28 barbecue per varie cotture, diretta e indiretta. 28 barbecue. Però dai, 28 barbecue. Beh, è stupendo, perché è pazzo? Sì, no, per carità, 28 barbecue. L'inferno del vegano. L'inferno del vegano. Ah, ragazzi, dove andiamo? Luigi, provincia di Foggia, dai. Vai, Luigi, dimmi. Luigi, quelli stanno chiamando. No, sono in diretta alla radio. Viva voce, sto lavorando perché io faccio rappresentanti di alimentari nei ristoranti, no? Sì, dimmi. Adesso sto in un ristorante di Cerignola qua. Sì. E io voglio dire una cosa, io ho venduto greggi. Io ho venduto adesso qualche greggio di pecore, di agnelli. Sì. Che cazzo sono? Allora, scusami, mi ha chiamato sul cellulare l'onorevole Gianmanco. Onorevole, lei è in diretta, prego, Gianmanco. Che vuole? No, mi dicono che il suo compare mi stava sparlando. Non stavo sparlando, onorevole Gianmanco. Io non ho sentito quello che... No, abbiamo semplicemente, onorevole, fatto risentire il suo audio nel corso di una trasmissione di oggi e abbiamo un po' scherzato su queste sue considerazioni. Questo è quello che... Ma vuole le considerazioni io le faccio anche, però no, di contrario non so adesso che cosa ha detto appunto il signor Cruciani. Onorevole Gianmanco, io non ho offeso nessuno. No, ho offeso semplicemente detto che la provocazione di Cruciani non mi è piaciuta e mi è sembrata di dubbio gusto. Semplicemente no, hai detto anche sì, onorevole Gianmanco, lei ha detto vergogna, si deve vergognare, eccetera. Ma va benissimo, per carità, ma va benissimo. Lei può, ma lei può dire quello che vuole, non è un problema. Vi votano, voglio precisare che vi votano commercianti di carne, allevatori, eccetera, che sono disgustati per quello che è successo, punto e basta. Cioè, sono i vostri elettori. La mia è stata disgustosa, quindi sono punti di vista, però ripeto, da qui a offendere... Ma io non ho offeso nessuno, ma lasciamo, non si sente bene, dai, adesso poi richiamiamo in caso, dai. Allora, Luigi, provincia di Foggia, vai. Stavo dicendo, io sono alimentarista, vendo alimentari, no? Carne nei ristoranti, eccetera. In diretta, viene tutto in diretta, dire... bellissimo, tutto in diretta, vai, meraviglioso. Sì, voglio dire una cosa. Sì. Questi qua, che cazzo fanno nella vita? Cioè noi, se noi non vendiamo più gli alimentari, neanche le carni nei ristoranti, che ha un'incidenza enorme dal punto di vista economico nello Stato, no? In Italia. Che cosa succede? Non lo so, si rivolga alla Boldrini, faccia una lettera al Presidente della Camera che dice che non è giusto uccidere altri esseri viventi, cioè gli animali. Sì, ma è tutta demagogia, questi qua non fanno un cazzo la mattina, non vanno a lavorare, noi qua ci diamo dentro, ragazzi, noi qua lavoriamo, Luigi, io pago le tasse. Le ripeto, lei ha perfettamente ragione, si rivolga alla Presidenza della Camera, alla signora Boldrini, che scherza sul fatto che diventa vegetariana, ma ognuno può fare la scelta che vuole, ma che ha aggiunto ieri. Allora. Ma che ha aggiunto ieri, che ieri ha aggiunto che non bisogna uccidere altri esseri viventi. Va benissimo, ma siccome è la terza carica dello Stato, deve tenere conto di gente come lei che lavora e che viene considerata da questi signori come dei criminali. Criminali, chiaro, intanto, criminali. Intanto le strade le aggiustano anche con i soldi nostri, non è che e c'è, ma si rivolga alla Presidenza della Camera, al signor Berlusconi, a questi qua che fanno demagogia con gli agnelli. Demagogia, io non faccio alcuna demagogia, ho mostrato la realtà dei fatti. Sono andato in una macelleria e ho comprato tre testine di agnello che si possono cucinare, cose capuzze, tutte legali, qua, capuzze, lo capuzze. So benissimo, sono una grande tradizione italiana, io non le ho mai mangiate grande in vita mia, no, sì. Sono una grande tradizione italiana, le capuzze pugliesi, e che si possono comprare, allora se volete vietarle, vietate tutta la carne, ma vietatela la carne, non fate i demagoghi con quattro agnelli in mano, mentre se ne uccidono altri 50.000. Dai. Sì, perché loro poi fanno così. Basta, ragazzi, io mi sono anche rotti i coglioni. Dovremmo cambiare argomento. Solo che non ce la faccio perché siete tanti a chiamare. Dai, è forte questa cosa qua, perché è una cosa che chiama molto. Cioè, c'è molto dentro. Capito? Cioè, ma ti rendi conto, però, che è pazzesco? Che questa cosa qui divide, cioè, tre teste di agnello che si trovano in qualunque macelleria ben fornita, qualunque scatenano un dibattito ancora più forte di gente che perde il lavoro, di temi che ci sono, della Siria, di Trump. Ma è una cosa incredibile, proprio. Siamo alla follia, siamo. Io ho venduto a un uomo 15 giorni fa, 20, che erano 42 agnelli, senza testa e corato, e misti. Sì. Cioè, che ho fatto di illegalità? Ma si rivolga alla Presidente della Camera, che dice che è inorridita. Queste qua, mandasse a cagare. Cioè, no, scusa, non volevo dire. No, ma lei può dire quello che vuole, deve uscire fuori tutto. Se lei vuole mandare a cagare qualcuno, mandi a cagare qualcuno tranquillamente. Mica l'ha mandata. Mica l'ha offesa. Vada a cagare. Ma che denuncia? Quale denuncia? L'Italia è il paese degli avvocati, non meglio che uno sta zitto e non dice niente. Però non è che non dice niente, io esprimo il mio parere. Un tale ha scritto, un tale Vincent Piccolo, che non so chi sia, Giuseppe Cruciani è la dimostrazione vivente che i preservativi sono la salvezza dell'umanità. Ma io li ringrazio questi qua, io ringrazio tutti, li amo tutti. Grazie Luigi, tu sei uno che lavora dalla mattina alla sera, che si fa il mazzo, pure mio padre ha fatto il rappresentante di altre cose, non di carne, anche se per un periodo ha trattato pure la carne, tanto tempo fa, se non ricordo male, ma devo farmi dire qualcosa da mia madre, ciao. Sono contento perché mangio l'agnello. Allora Paolo da Milano, Paolo. Stavo dicendo, quando è iniziato la telefonata, che godo, perché tanto queste sono utopie. Sì, è come la prostituzione, la lotta alla droga. Come fai a fermare certe cose? Gli animali nel mondo si mangeranno sempre, mettetevelo bene in testa. Volevo chiudere dicendo, mangiate una brioche vegana, così il vegano rimane senza e non fa colazione. Mi pare una sciocchezza micidiale. Nicola da Milano, vai Nicola, vai. Sì, pronto? Dimmi caro, dimmi. Ciao Giuseppe, ciao David. Sì, ciao, dimmi. Sempre in prima linea. Sempre, amico mio, sempre. Non mollare mai. Mai mollare nemmeno di un millimetro. Mai mollare. Senti Giuseppe, ma Savino l'hai censurato? Chi? Savino di Bari. Savino di Bari, amico mio, che cazzo ne so, se non chiama lui non è che lo chiamo io. Savino, qualcuno ti reclama, signor Savino. Savino di Bari, Savino di Bari, il famoso, quello che tu hai attaccato perché aveva dei precedenti, non mi ricordo, ti ricordi? Ah, ma quello è un bandito, dai, un mezzo bandito. Perché è un bandito, dai, ma che ci frega? Se non si può dire che è un bandito anche uno che aveva dei precedenti penali, di chi si può dire? Solo dei Rom, non ho capito. Anche Savino, come i Rom, adesso vedrai che chiamerà perché ne sono sicuro. Ha avuto precedenti penali. Quindi Savino, come Casa Pound. No, Casa Pound strozzinaggio no, questo assolutamente no. No, perché sennò facevo la paragone, capito? Poi va bene, Nicola, dimmi. Sì, senti, Giuseppe, io volevo fare un intervento sulla puttanata che ha fatto la Boldrini, sarà un po' ripetitivo, ma forse tu non hai colto una cosa. Secondo me c'è un fatto molto più inquietante. Qual è? Nel sottofondo del contributo che hai mandato si sente sai il rumore dei fotografi quando fanno le fotografie in maniera proprio compulsiva, cioè manco fossero arrivati i Rolling Stones. E quindi voglio dire, sono anche i media che alimentano questa cosa. Vabbè, ma è normale, il presidente alla Camera dice una cosa del genere, anzi, meno male che viene diffusa urbi e torbi, caro Nicola. Allora, ciao. Quando mi vuoi chiamare, Giuseppe, io sono sempre a tua disposizione. Di domenica io sono contento perché mangio l'agnello. Pronto? Sì, Croce? Sì. Sono Cruciani, che cazzo denunci tu? Non ho capito. Dai, richiama questo coglione, dai. Teo da Foggia, vai, Teo. Parenzo. Aspetta un attimo. Sì. Pronto? Croce. Oh. Sono Cruciani. Allora parlo, ti ho denunciato oggi. Ma che hai denunciato cosa? Cosa hai denunciato? Richiama. La democrazia. Teo, dimmi. Oh, Parenzo. Dimmi. Quindi non mangio maiale, Parenzo. Vabbè, ma potrà essere. No, avrà la facoltà di non mangiare il maiale oppure è costretto a mangiare il maiale? Ma no, ma. Aspetta, Teo, che devo rompere i coglioni a questo. Vabbè, allora Teo, che dicevi? Dico, non mangio il maiale perché? Perché è un animale impuro, giusto, Parenzo? Sì, perché seguo, non tutte, ma... cazzi suoi? No, ma lo spiego, seguo alcune regole, che sono molte, io ne seguo soltanto alcune, della tradizione ebraica, ma non faccio male a nessuno, non rompo i coglioni a nessuno, vado a cena spesso con Cruciani, sarò a Milano venerdì prossimo, se lui mangia il maiale, io mangio un'altra cosa, ma non è che mi disturba che lui mangi, o gli dicono devi mangiare il maiale, che me ne frega donna, a me. E se una donna c'ha le mestruazioni non la puoi toccare, giusto? Pure quello in generale è una regola che vale per tutti, mica soltanto per chi crede, ebreo. A me non piace, io non gradisco. Appunto, però che vuol dire? Ma quella è un'altra cosa. Cioè, c'entra la religione col fatto che uno c'ha le mestruazioni? C'è anche questa, il signore che sta chiamando, l'imbecille che mi sta provocando su questo tema, perché ride, poverino, la sciagurata risponde, l'imbecillotto. Chiedo scusa per la parola imbecille. Chiedo scusa per tutti gli imbecilli, infatti si potrebbero offendere, paragonati a lei, chiedo scusa. Il simpatico personaggetto che sta chiamando qui in diretta, che vorrebbe provocarmi su questa cosa qui delle mestruazioni, ma non è una questione che non attiene soltanto alla religione, attiene alla sensibilità di ognuno di noi, c'è a chi piace e a chi non piace. Non a me non piace. Nella religione è prevista questa cosa, comunque sì, per rispondere. A me non piace. Ecco, vedi, e Cruciani non è ebreo, né tantomeno cattolico, mi pare, non lo so cosa sia. Allora, Parenzo, tu distribuisci, tu fai sempre saggi di intelligenza. No, dipende, per qualcuno di intelligenza, per altri. Allora? E poi vieni fuori con questi retaggi religiosi. Rispetto a tutte le religioni, ci mancherebbe. Vabbè, altro. Ma scusa, Teo, però per me lo sai come la penso sulle religioni. La maggior parte sono tutte follie. Ma se uno è religioso ed è convinto, non fa male a nessuno, non rompe cazzo agli altri, va benissimo. L'importante è non rompere i coglioni agli altri. Libero di mangiare quello che voglio, non devo passare come un criminale o complice di crimini, chiaro? Sono d'accordo. Allora, sono mi segnalano giustamente, Teo, fermo un attimo, che Damien Hirst, famosissimo artista, ha fatto un sacco di soldi esponendo, per esempio, squali imbalsamati e bacche squartate. Sì, infatti rompono i coglioni pure a lui, che ha fatto un'esposizione in Italia, e gli animalisti, credo sempre i soliti gruppi, sono andati a rompere il cazzo pure a Damien Hirst, capite? Un altro coglione scrive: per gente come te che il mondo sta andando a puttane. Ladro in limousine, che Dio ti maledica, la pagherete cara e la pagherete tutti. Ma questo è proprio un cretino, un imbecille totale. Mamma mia. Allora, a proposito, qualcuno ci diceva prima delle macellerie islamiche, no? Le macellerie islamiche. Certo, quelle fatte con il rito halal. I vegani dovrebbero incazzarsi anche con le macellerie islamiche. Non scatenarli, che poi questi ti prendono sul serio, dai. Sentiamo. Pronto? Sì? Macelleria islamica, pronto? Che parla? Ah, volevo comprare se avete dell'agnello del capretto fresco. Sì, c'è, signore. Senta, lei non si vergogna di vendere carne di agnello? Chi è che parla? Io mi chiamo Paolo, sono il presidente dell'associazione Fratello Agnello. Non si vergogna di vendere carne di agnello e di capretto e di qualsiasi altro animale? Sì, io sono vegetariano adesso. Sì, ma chi vuoi prendere per il culo? Vergognati! Ma dentro qua, allora mai a coger la carne, porco cane, ostia, mai a cogerlo, po'. Sei pronto? Sì, buonasera, macelleria islamica? Sì, dimmi. Sì, avete agnello o capretto? Agnello, sì, c'è. Senta, ma lei non si vergogna di uccidere un agnello mentre è cosciente? Cosa no, significa? Significa che è una porcheria, non si vergogna. Ma non ti piace questa coltello in gola? Dobbiamo ammazzare con la pistola? No, non bisogna proprio ammazzare, non abbiamo capito l'antifona. No. Mangia pere, mele, mangia vegano, non ammazzare gli animali. Ma no, tu hai visto come li ammazzano col coltello nella gola? Ma che frega a me, io come li ammazzo? L'importante è che arriva la roba per me. No, invece è importante, è facile. Ma non rompe il coglione fino adesso, per favore. Ho sentito bene, a rompere i coglioni? Italiani Marco. Pronto? Cosa vuoi? Dimmi. Sì, voglio sapere perché uccidete gli animali, perché siete complici di un omicidio. Scusa, non voglio sentire tua voce, te lo giuro. Ti mando tuo animale direttamente di là. Non voglio sentire tua voce. Invece la senti. Chiudi il tubo tu, capito? No, non chiudo un tubo. No. Qua più, capito? No, non è vero. Io ti chiamerò ogni giorno invece, finché non chiudi la tua macelleria. Vergognati. Ma tu, non si ammazzano gli animali. Te lo giuro, ti metti la bocca per te. E alla vesce. يلا يا ابن المتلاكه انت عربي يا مرد يا ابن المتلاكه ecco alla hala hala hala vieni vieni ti faccio come vorgine veramente ti ma se non sapete neanche parlare scemo. Sei pronto? Non è bello sbattere il telefono in faccia a uno che sta parlando. Vaffanculo, vai a cagare, no! Morto, porca cane. Okay. Sì, sono integrati però questi islamici, perché conoscono benissimo il nostro lessico familiare. Devo dire, da questo punto di vista, uno ha risposto giustamente al vegano sì. Assatanato, ha sì. Detto a me non importa coltello o pistola, basta che arriva roba fresca. Ecco, in questo mi ha rassicurato, basta che arriva roba fresca da vendere. Questo Islam ti piace allora? Questo è un Islam che mi piace, ecco, questo è un Islam che mi piace, un Islam integrato, gente che lavora, che non rompe il cazzo. Ma io figurati, non sono contrario, amico Donato. Ma hai mai comprato la carne in una macelleria islamica, ad esempio? Non lo so, non credo. Beh, no, credo, no. Ma io non compro tanta carne, compro poca carne alla fine. Cioè, mangerò un paio di bistecche a settimana, forse, un paio di pesce? Cose a settimana. Pesce tantissimo, bene, sì, tanto bene, pesce. Bene, sì, tanto ottimo, pesce. Ottimo. Perché non viene protetto il pesce? Perché il sarago non viene protetto? Perché bravo. Non parla? Perché non bela? Perché non fa bene? Perché non parla? Non dice nulla con quella boccuccia? Ecco, un esperto, perché viene protetto di meno? Un perché esperto, non portate il pesce alla camera? Perché non portate i pesci alla camera? Vergognatevi allora! Vedi un esperto, un amico, lo chiameremo B perché non vuole essere identificato. Vabbè, dice, ci ascolta, dice: l'agnello, se lo allevi solo al latte, è molto più buono quando lo mangi. Vedi, un grande esperto questo di agnelli. La mia specialità è lo squirting. Beh, amica mia, Parenzo! Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Spruzzavi, cos'è lo squirt? Mi visita un dottore, mi disse: non è niente, è nettare d'amore. No, io faccio altre cose. Io cago addosso ai clienti. Breaking news. Buonasera, torniamo sulla notizia con cui abbiamo aperto il giornale radio delle 19, cioè il fatto che gli Stati Uniti hanno sganciato questa sera alle 7 ora locale sull'Afghanistan orientale nella zona di Nangarhar una bomba già soprannominata la madre di tutte le bombe, si chiama MOAB, Massive Ordnance Air Blast, pesa quasi 10 tonnellate e ha la forza di distruggere tutto nel raggio di centinaia di metri ed è la prima volta che viene utilizzata in combattimento. Bomba sganciata contro l'ISIS e contro anche la ramificata rete di tunnel dei combattenti legati allo stesso ISIS. La notizia è stata data da fonti militari, poi anche confermata in conferenza stampa dalla portavoce della Casa Bianca Spicer. Appunto, come vi dicevamo, l'obiettivo tunnel dell'ISIS combattenti nel distretto di Akin nella provincia di Nangarhar. Torneremo a occuparci di questa notizia all'interno di Effetto Notte che andrà in onda a partire dalle 21. La Zanzara. Il culo nella panna, ti sto dicendo, io devo lavorare, quindi non mi fermo per parlare con te. Se vuoi mi senti, se non mi senti in culo metto giù e me lo metto l'ostia, non è che sto qua, sei giù. Buona, ciao, salute, Beagle. Cornute che non sono out, questi sono dei cornuti. Siete morti, siete morti, stai zitto che non sei nessuno. La smetta, intervengano i commessi. Asmodeo, vai via. Della vicenda Di Maio delinquenti rumeni, no? Di Maio delinquenti rumeni, dice Di Maio che non ha mai voluto offendere il popolo rumeno. Ragazzi, io non ho i paraocchi. Una volta tanto ha ragione lui. Cioè, una volta tanto ha avuto ragione lui. I dati sono dalla parte del signor Di Maio. C'è poco da fare, è inutile Parenzo che sbraiti, è inutile che cominci a dire Di Maio populista, eccetera, eccetera. Non è così, ha ragione lui da questo punto di vista. Cioè, c'è poco da fare, ma ci sei o non ci sei? Dove cazzo sei? Ma certo che sono qua, se non mi mandi, sono qui a Roma a combattere, a sentire le tue fregnacce. Stavo parlando, mi sembrava di essere spento e nessuno mi sentiva. Stavo cercando di perché mi stanno chiedendo il numero della Gianmanco da Milano. Adesso glielo sto mandando, aspetta, con calma, pronto? Allora, Di Maio, dai. Ma siamo in diretta o no? Dai, non rompere il cazzo, sentiamo Di Maio. Io non confermo invece quello che non ho detto e che ho letto sui giornali stamattina, che io volessi offendere il popolo rumeno è una balla. Io non ho mai voluto offendere il popolo rumeno. Popescu, presidente dei rumeni in Italia, Di Maio si è fatto una canna. Bravo, bravissimo. Non lo so, questo qua si è fatto una cana, cosa si è fatto? Quando mette il nome di un popolo, questa qua è una forma molto grave di razzismo o di imbecillità o di ignoranza. Popescu, in Italia non vanno in galera, in Romania li riempiono di botte. La cosa che lui non si mette è la perché i delinquenti vengono in Italia. Per il fatto che le leggi italiane gli permettono di rubare e di uscire due giorni dopo. In Romania se li prendono, li mettono in galera, li riempiono di botte. Ragazzi, a proposito dell'immigrazione, però, c'è una roba incredibile. Un imprenditore, non so in quale trasmissione, dice chiaramente: faccio business con l'immigrazione. Senti, senti. Io faccio l'imprenditore e uno dei business principali che ho nel settore degli immigrati. Cioè, ci può spiegare meglio? Affittare gli immobili alle cooperative che gestiscono gli immigrati. A parte sono alberghi e poi gli altri sono piccoli condomini completamente gestiti, quindi dai 15 ai 20 appartamenti per condominio. Quant'è che fa questo? 650.000 euro al mese. Vabbè, ma no, beh, ma 650.000 euro al mese sull'immigrazione. Ti dico solo questo. Poi però uno dice che non è un business. Questa cosa va, scusa, va, va regolamentata in Germania. Hanno regolamentato questo fenomeno. Lo Stato ha stanziato un sacco di soldi e si fa carico dell'accoglienza. Fammi sentire questo, ti prego. Sentiamo. Le cifre intorno al mio business sono buone cifre, non posso lamentarmi. Il guadagno è notevole. Io in questo momento siamo intorno al migliaio di immigrati gestiti, il nostro budget è di raggiungerne circa 5.000 entro l'anno. Un ammontare mensile di circa 600-650.000 euro al mese di fatturato, di puro affitto, solo affitto. Otto persone in 50 metri quadrati, impossibile con gli italiani. Ci permette di concentrare grosse quantità di immigrati all'interno dello stesso identico appartamento, cioè se noi abbiamo appartamenti di 50 metri quadri possiamo mettere fino a 8 persone per bagno, seguendo la normativa italiana, cosa che ci sarebbe impossibile affittare lo stesso immobile, le stesse condizioni, ma a qualunque persona in Italia, cioè guadagniamo più del doppio di quello che si potrebbe guadagnare. Allora, Giuseppe da Catania, vai. Cosa dimostra questa cosa? Che no, ci sono italiani che c'è gente che fa un sacco di soldi, dai. Che sono dei criminali. Ma non so perché criminali, questo è un imprenditore, ma giustamente sulle se tu cominci a cogliere dei migranti, perché mancano delle regole precise. La legge dovrebbe vietare questo, dovrebbe dare un'accoglienza giusta, dignitosa, le stesse regole per cui non puoi mettere 50 Giuseppe italiani Catania, in una dai. Stanza, Giuseppe capito? Giuseppe Catania, dai. Quello è un criminale. Giuseppe, vai. Oh. Dai, dimmi Giuseppe, dimmi. Dai, però non si sente niente, dimmi nulla, Giuseppe, nulla, dai, nulla. Dimmi. Niente, non si sente un cazzo. Abbiamo con noi Gabriella Giammanco, eccoci. Ciao, ecco. Ciao. Ciao, ciao Giuseppe. Allora, onorevole, buonasera. Precisiamo onorevole. Questa cosa qua. Tu hai detto durante questo collegamento che scambia, per carità, puoi farlo benissimo, per carità, che quella foto io non so che era vergognosa, che quella foto lì con le teste, ti segnalo, cara Gabriella, che quelle teste lì erano testine di agnello. Innanzitutto spieghiamo che Gabriella Giammanco è una deputata di Forza Italia. Esatto. Allora, quelle tre testine erano tre testine di agnello che io ho comprato in macelleria. Però il punto non è questo, il punto è che tu puoi fare tutto e puoi mettere sulla tavola quello che vuoi e mangiare quello che vuoi. Ci mancherebbe io pure. Semplicemente contestato la fotografia, perché me è di buon gusto, per me vedere tre testine ma la vedi in macelleria? Insanguinate, ma le vedi in macelleria? Vedi? In macelleria le vede? Cioè, io credo che se si facesse un sondaggio, forse due persone su tre la penserebbero come ma me. Ma me ne frega del sondaggio a me sulla no, foto. A me non piace vedere le teste così. Allora, tu la mangi la carne? Io, guarda, ti dico la verità. Ecco, un'altra vegetariana mangio, è spuntata. Allora, io non sono vegetariana né vegana, però la mangio molto, molto, molto. Vabbè, mangi la carne, l'agnello lo mangerai a Pasqua? No, non lo mangio, non mangio. Perché? Per seguire Berlusconi? Agnello, non mangio cavallo, non mangio capretto, non mangio coniglio e non mangio vitello. L'unica cosa che mangio, se mi consenti, è il pollo. Tu mi dirai, ma che cosa cambia tra il pollo no, e il tagliettino? No, ho capito, perché la carne è bianca e pensi che faccia meno male. Altra cosa assurda. Preferisco mangiare il pollo. Vabbè, ma ognuno fa quello che vuole, poi, tra l'altro, per carità. Scusami, questo da tempi non sospetti. No, ma perché... Non è che se ora va di moda non lo mangio. No, però scusami, Gabriele, io voglio... Va bene, ma va benissimo, io non sto contestando questo. Ognuno, figuriamoci, sono il paladino della libertà, del fatto che ognuno può mangiare quello che vuole, eccetera. Allora vedi che la cosa ci accomuna. No, va benissimo. Io semplicemente contestato non te. Ma la foto è la realtà, perché non hai contestato? Perché non hai contestato la Boldrini che porta due capre in Parlamento e dice che sono esseri viventi che bisogna proteggere, che non vanno uccisi gli esseri viventi? Ma perché non hai contestato il presidente della Camera che ha sfruttato due pecore? Una cosa retorica, ecco, consentimelo. Ma tra due agnelli vivi e tre testine morte, scuoiate e piene di sangue, preferisco due agnelli vivi. Ma Ma cosa vuol dire? Però... ma le trova in qualunque macelleria decente di qualunque parte d'Italia, questo? È un piatto tipico italiano. Non le fotografi. Perché, ma perché non le fotografi? Perché gli altri che fanno? Perché gli altri che poi... lo trovo macabro. Ah, è una questione estetica. È una questione estetica. È una questione di Dario Argento. Ma che film? Ma quella è la realtà. Dove le semagna? Scusa, la differenza tra... ma guarda, la realtà è anche tu che vai in bagno a fare i tuoi bisogni fisiologici, ma non è che ti fotografi. Ma non è la stessa cosa. Scusi, onorevole, onorevole mia, ma vedere quella testa nel piatto, però mi scusi, onorevole, che differenza c'è tra vederla prima della cottura e dopo la cottura? Se l'avessimo fotografata dopo la cottura, che differenza avrebbe fatto? Nessuna, no? Guarda, probabilmente come impasto sarebbe stato un impasto molto più... Ah, è una questione estetica. Solo perché è cotta. È una questione estetica. Solo perché la testa è cotta. Ma scusate, non vi risulta che ci sono persone che quando vanno a fare il prelievo del sangue vengono? Forse perché fa impressione il sangue. A me ha fatto impressione quella foto. Ma non è... fa impressione perché è la realtà che viene mostrata. Quello che, quando uno va in macelleria e prende quella testina... Ma guarda, pure i bambini morti nelle guerre sono la realtà. Però ma quando cosa una fotografia... c'è? Ma che paragone è? Scusami, vedere, Gabriella. Sono delle fotografie. Ma allora, scuoto, scusi, no? Faccia una proposta. Allora, onorevole Gianmanco, faccia una proposta di legge per cui le macellerie devono avere le finestre chiuse. Allora, esatto. Che non ci devono essere vetrine. Questa proposta di legge. Le macellerie possono fare quello che vogliono. No, io sono per la perché se io passo a Via Condotti, dov'è qui una macelleria al Pantheon buonissima che c'è a Roma, non voglio dire il nome. Se io passo là davanti, vedo le testine d'agnello, vedo i pezzi di carne appesi. Pezzi di carne col sangue che scocca e cola. Ma che allora fate una proposta di legge per chiudere le macellerie, mettere la serranda sulla macelleria? Però scusami Gabriele, un'altra cosa ancora. In realtà io, come per i sexy shop, uguale, fate la stessa cosa. I sexy shop vanno... infatti sono coperti. Esatto, sono... fate la stessa cosa come per i sexy shop. No, però scusami Gabriella, c'è un'altra cosa che ti voglio dire. Allora, è molto semplice. Io ho fatto quella roba lì come risposta ad una campagna che va avanti ormai da una settimana, ma in realtà si presenta ogni anno, sì. Portata avanti in primis dal suo leader politico, il signor Berlusconi, e poi in maniera, devo dire, un po' soft, anche se forte, perché l'ha fatta a casa sua con gli agnellini tutti puliti, eccetera. Un'altra persona dallo scranno della terza carica dello Stato ha fatto questa campagna contro gli agnelli da mangiare a Pasqua. Io come risposta a queste cose qui, a modo mio, in questa trasmissione, ho mostrato la realtà dicendo vogliamo continuare a mangiare l'agnello, chiaro? Dunque, va non è... benissimo Cruciani, io non ho contestato lei. Ma ha detto che era una cosa vergognosa, non ho capito. La fotografia, ma che vuol dire? Ma come si fanno le campagne? Gli altri ma gli altri portano le capre in Parlamento? Portano, capito, dove già ce ne sono parecchie di tante capre. Tra la vita e la morte, io preferisco ma la che vita. Vuol dire? Ma non vuol dire niente. Ma lei mangia dei morti ogni giorno, pure lei se ne renda conto, ma mangia dei morti ogni giorno anche lei. Ripeto, lei mi i polli, lei mangia il pollo? Mangia il pollo? Mangia il pollo? Mangia il pollo? Mangia il pollo lei? Ammazzano un sacco di polli. Io faccio il comunicatore, però è diversa la cosa. Voglio comunicare che bisogna continuare a mangiare. Se la mettiamo dal punto di vista della comunicazione, Cruciani, le dico che come comunicazione ha sfondato, perché è stata estremamente diretta. Però a me non piace. Vabbè, un'altra cosa, d'accordo, ma certo, assolutamente, figuriamoci, ci mancherebbe altro. Ma allora, figuriamoci, un'altra cosa però, lei ha detto come che Berlusconi... le vignette di Charlie Hebdo, a me non piacevano, non mi piacciono. Quelle poi neanche sono... a me. Sono satiriche, per carità, scusi, hanno parlato di sabbia. Onorevole Gianmarco, un'altra cosa. Premesso il fatto che lei mangia dei morti, cioè dei polli, si renda conto che mangia dei morti, cioè dei polli ammazzati, dei polli ammazzati, dunque lei se ne deve rendere conto. Anche lei che mangia dei polli, mangia dei cadaveri, come dicono i vegani. Seconda cosa, Berlusconi, lei dice che è andato da McDonald's per fare una indagine sociologica. Ma di che stiamo parlando? Dai, su! Ma quale? Con un po' di ritardo, amica mia. Tempo nella vita, ma i fast food sono roba di 20 anni fa, di 30 anni fa in Italia. C'è il primo fast food. Magari ha visto il film del fondatore. È andato lì perché si è fermato. Gli è venuta la curiosità. Sì, va bene. Ma perché è stato folgorato? Secondo lei, da folgorato sulla via dell'agnello? Il signore degli anelli l'ha chiamato Mentana. Il signore degli agnelli. Guardi, bella battuta. Io le dico, prima le ho scritto anche un messaggio. Posso ripeterle quello che le ho scritto a Berlusconi? La strumentalizzazione di cui si parla tanto, di questo povero agnello, non è tale, perché Berlusconi... Appropriazione indebita di agnello. Ecco, non l'ha fatto sequestro per fare propaganda politica. Ah no, è che l'ha fatto semplicemente forse perché lui ha 16 cani, cavalli, poni, adesso cani. Pure gli agnelli. Serie di animali in casa. Dai, su. Evidentemente, ma lo sa che gli allevatori, pensate che è passato da frequentare gli agnelli, quelli veri, agli agnelli quelli che si dovrebbero mangiare. Pensa, il cambiamento epocale. Deve sempre fare lo spottone, scusi, deve sempre spottere. Vabbè, noi, no, ma dico, è passato da agnelli l'avvocato all'agnello quello che si deve mangiare a base. C'è un'altra c'è un'altra cosa da dire, poi chiudiamo. Io spero che voi abbiate qualche animale in casa e che siate affezionati a quell'animale. Ma va bene, proverà amore per gli agnelli, per carità, crediamo a questa cosa qua. Io non ci credo, ha fatto una mossa anche riuscita dal punto di vista qualcosa. Allora io dico un'altra cosa, amica mia, il punto fondamentale è questo: un sacco di gente, allevatori, associazioni delle carni eccetera, sono incazzati neri pure con voi, ed erano vostri e sono ancora, immagino, vostri elettori. Quella foto lì di Berlusconi, quelle immagini hanno tradito un sacco di elettori, allevatori, associazioni, questa è la realtà. Solamente due cose e questo prova il fatto che appunto non è stata fatta un'operazione elettorale, ma è stato fatto un qualcosa. Vabbè, senza poi, magari col cuore, lei dice, col cuore. Sì, senza magari riflettere sulle conseguenze dal punto di vista, come lei dice, di ritorno poi elettorale dei nostri elettori. Quello che si potrebbe dire poi a questi allevatori, io faccio un messaggio. Che li state personalmente, io mi auguro che gli allevatori di cui stiamo parlando sono allevatori che comunque anche nel loro quelli lavoro hanno visto quella foto lì. No, rispettano gli animali. Ma che vuol dire? Certo che rispettano, non violano la legge. Quella foto lì che invitano a mangiare l'agnello. Quando ci sono allevamenti intensivi che sfruttano gli animali perché li tengono dentro. Ma proponga, sono fatti a norma di legge quegli allevamenti. Ragazzi, ci dobbiamo fermare, però, cambiate la legge, grazie. si potrebbe pensare ad assicurare maggiori condizioni. Vabbè, arrivederci, grazie. Arrivederci a voi. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. La Zanzara. Crucio, sono qua con un'amica. Si è appena tolta le scarpe. Ma chi è? Dai, cazzo. È Cruciani della Zanzara. Sì. Salutalo. No, non è vero. Sì, è lui. Salutalo. No, sì, ciao. Ciao. Ma non lo stai registrando, coglione. Siamo al top. Parenzo, ieri una tipa ha squirtato sulle mie lenzuola. Me le ha macchiate. Non le ho cambiate e ci ho dormito sopra. E lo rifarò anche stanotte. Mamma mia, come lotta l'amico Ziliani, sai quello del vino? Sì, l'amico Ziliani, Franco Ziliani, gran combattente, è veramente un personaggio che sarebbe quasi da arruolare ogni tanto, da arruolare per grandi battaglie. Senti che ha detto sull'intervento della Gianmanco, la tizia del partito del puttaniere di Arcore, sarebbe meglio che si occupasse di cose serie e di lavorare. Signor Ziliani, number one. L'ha scritto su Twitter? Su Twitter. Allora, io non c'entro nulla, l'ha scritto il signor Ziliani. Ecco. No, appunto, che abbiamo già tanti problemi noi. Caro Ziliani, domani tutto lo spazio, grandi battaglie, domani, oggi siamo un po' pieni, un po' caro Ziliani. Sì, giustamente vorrebbe intervenire per darci solidarietà e lo apprezzo moltissimo da parte di uno con cui abbiamo battagliato, signor Ziliani. Sì. Domani qui alla Zanzara, domani. Giuseppe, provincia di Catania, poi Luca da Padova, vai. Vai, Luca. Luca. Che cazzo fa questo qua? Cioè, sembra che sta al torno, questa è in fabbrica. Luca. No. Luca. È come il gesso sulla lavagna. No, ma è divertente, i rumori mi piacciono, però, insomma, Luca. Uno scaccia vampiri. Ragazzi, richiamate questo qua, vai. Giuseppe, provincia di Catania, dai. Dimmi. Ciao Giuseppe. Sì, dimmi. Ascolta, io dedico 5 minuti di tempo. Sì. Sinceramente. 5 minuti mi pare troppo, però insomma dimmi. Non ha senso, diciamo, io sono un vegetariano, sono un attivista, diciamo, e io da un sacco di tempo, diciamo, mi dedico sugli animali. Io anche se tu hai la tua scelta, io ho la mia scelta, però sinceramente non ne vale la pena tu spubblicare già su Facebook la cosa. Ragazzi, ma io che mestiere faccio secondo voi? Il carpentiere, con tutto rispetto dei carpentieri. Ascolta, che mestiere faccio? Ma guarda che è incredibile. Gli altri possono fare il cazzo che vogliono, dire quello che vogliono. Ascolta, non posso fare le mie battaglie io. No, perché le faccio apposta per la notorietà. Ascolta, ma non ho bisogno di un cazzo. Ascolta, non avete capito nulla. Io, Davide, che pure mi critica per tante cose, lo sa benissimo che non lo faccio per questo. Ma mi vengono così. Mi vengono così. Che polemica allora è quella? Io sono un uomo di pace, di pacifista, però sinceramente io sono una persona, diciamo, cordiale, diciamo, ho rispetto verso gli altri, però sinceramente è come se tu mi hai attaccato, mi hai offeso a me, perché io... Cioè, ma perché ti ho offeso? Non ho capito. Che cosa, in che cosa ti ho offeso? Al limite dovrebbero essere offesi quelli che sono stati ammazzati, allora, gli agnelli, non altri. Da me, da quelli che li hanno ammazzati. Al limite si potrebbe offendere le madri, i padri, se hanno capacità di offendersi, che non si possono offendere perché non sono come noi, è evidente, no? Voglio farti capire, aspetta, fammi parlare, gente. Ma io ti sto facendo parlare, ma dov'è l'offesa? Io non capisco dov'è l'offesa. Allora, noi abbiamo un'anima. Gli animali hanno un'anima, anche loro hanno un'anima. Ma sì, quindi può essere, ma non è quello. Sì, ma non mi fare il discorso dell'antispecismo. Sono in grado di provare emozione, amico mio. Noi siamo diversi. C'è stato, ci sarà mai un cane, un uccello, un coniglio, ministro? Magari farebbe meglio, non lo so, dai ministri che abbiamo avuto. Ci sarà mai? No. Ci sarà mai qualcuno che guiderà un'azienda? No. E allora non ci rompete i coglioni. Siamo diversi, punto. Non siamo tutti esseri uguali. Un altro mi ha scritto che io avrei detto, aspetta, no, che questo è incredibile. Aspetta, Giuseppe, non mi rompi i coglioni, aspetta. Dire che godi perché a Pasqua vengono uccisi gli animali, io non l'ho mai detto che godo, mai. Non l'ho mai detto. Che vuol dire godere? Io dico che è un dato di fatto che vengono uccisi. Non è che godo, perché dovrei godere per l'uccisione degli animali? Dico che ne vengono ammazzati ogni giorno in tutto il mondo milioni e milioni. Ed è un dato di fatto inoppugnabile. E soprattutto è un dato di fatto che non si può cambiare. Ma altrimenti certo. Il mondo morirebbe. Il mondo, se non ci dessimo più animali, aspetta, crollerebbe. Aspetta, un minuto, ascolta una cosa. Aspetta. Tu ci credi allora? Mi puoi fingere che sono un pazzo, un malato mentale? Credimi, ascolta una cosa. Io, sinceramente, io prego. Ma chi ha detto che sono malato mentale? Io ogni giorno prego per gli animali. Io ogni giorno prego. Amico mio, ma se tu vuoi pregare ogni giorno per gli animali, amico mio, prega pure per gli animali. Nessuno te lo proibisce. Uno prega per tutti. Io prego anche per te affinché Dio possa convertirti, possa chiarirti le idee. Perché sinceramente io ci sto male di vedere ancora gente. Però Giuseppe, scusami, che preghiera fai per me? No, è interessante perché qualcuno che prega per me è abbastanza bizzarro. Che preghiera fai? Io prego per tutti coloro. Ma che preghiera fai? Ma nello specifico, vabbè, la preghiera più comune, il Padre Nostro, la Maria, e prego. Facciamo un Padre Nostro, facciamo un Padre Nostro insieme, ti prego, fammelo, perché ne ho bisogno in questo periodo. Mi attaccano moltissimo, sono nervosissimo. Sì. Cioè, facciamo un Padre Nostro, ti prego, facciamo la preghiera insieme affinché possa esserci la pace nel mondo, ma non so, per le persone. Io vorrei la pace nel mondo, capito? Sì, tutti, però proviamo a restringere un attimo il campo, perché altrimenti è troppo vasto, sa questo. Io facciamo anche questa cosa qua. Sa quante cose vorrei facciamo io in questo momento. Quella foto a me mi sta, diciamo, sul cazzo un pochino quella foto. Questo non è molto cattolico come cosa. Comunque va bene, sì, per carità, non saremo noi a. Allora? Perché ti sta sul cazzo? Facciamo questa preghiera, dai. Padre nostro che sei nei cieli, sì, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, allontanaci dalla tentazione, ma liberaci dal male, amo. Signore Gesù, benedici Cruciani affinché possa cambiare idea, affinché tu possa fargli capire che gli animali non meritano di essere uccisi, non meritano di fare quella brutta fine. Cioè, Signore, benedicio, Signore, affinché, e anche benedici coloro, quegli acuzzini, quella gente ingiusta che ogni giorno uccide gli animali, uccide tante persone. Quindi io vorrei solo la pace. Giuseppe, ti prego, non pubblicare più quelle foto, te lo chiedo per favore, ti prego. Giuseppe, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Stai pregando con Asmodeo, lo dico all'amico che chiama. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. non ci induce dalla tentazione, Maria, perché c'è normale. Dio non induce dalle tentazioni, ma ci allontana dalla tentazione. Era non ci indurre in tentazione, mi sembra, però. Ci allontana dalla tentazione, perché Dio non induce nel peccato, ma bensì ci allontana dalla tentazione, capito? Sì, però mi sembrava che non ci indurre in tentazione. Mi sembra, io adesso. No, io leggo qua non ci indurre. Io adesso non sono nostro, della no, vostra. Aspetta, c'è bisogno di una terza ripetizione, se no non va bene. Bisogna farla bene, non è che si può. Riattacchiamo, dai. Importante, concentrati, Giuseppe, perché sennò altrimenti non puoi ottenere risultato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Fermo, non ci indurre in tentazione, ripeti, non... ma liberaci dal male, non ci indurre, ma liberaci dal male. Va bene, ok. Ascoltami una cosa, ascolta, mi prometti per favore, Non te lo posso promettere, amico mio. Per il mio rispetto, per favore, per rispetto mio, ti prego, ricordati di me. Amico mio, che ti voglio, ma non posso prometterlo, perché sono ateo. Primo perché sono ateo. Ma no, promettiglielo, ti ha fatto la preghiera, dai. Ma ho capito, amico mio, ma che ti devo dire? Ascolta, a me sinceramente mi sta sul cazzo queste foto che pubblichi, mi danno fastidio, sinceramente. Ma allora tienitelo per te, tutte le tue cose, tienitele per te, basta, cazzo. Tu sei Giuseppe, tu vedi, sei un vegetariano, non so se ancora vegano, moderato, tranquillo, che non mi insulta, che mi vuole anzi portare con la preghiera, certo, nel tuo campo. Bravo, certo. Io per questa cosa ti abbraccio forte, ma su di me le preghiere, adesso ho provato anche, non sortiscono alcun effetto. Io sono un ateo indefesso, però ti voglio bene lo stesso, ti abbraccio, ciao. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Siamo il top. Ciao Ricchio. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Smart People Drive Different, l'auto e tutti i servizi in un solo canone mensile, e non ci pensi più. La Zanzara. Attenzione, comunicato internazionale del Tribunale Speciale delle Scorregge. Declamerò ora l'articolo 1. La scorreggia è una libertà personale fondata sul lavoro dell'ano. Articolo 2. La scorreggia è sacra ed inviolabile. Articolo 3. Sono ammessi a scorreggiare tutti gli esseri umani di qualsiasi genere, sesso ed età, compresi gli animali delle grandi 5 famiglie, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi e pesci. Grazie. Luca da Padova, vai. Eccomi qua. Dimmi Luca. Allora, vi ho chiamato con la scusa di Sgarbi per dire che ieri sera eri sotto casa mia che disturbavi mia sorella, cioè una ragazzina di 13 anni, Cruciani. Lo so che ogni volta che cambi città ti devi presentare a tutto, cioè a tutto il vicinato, te l'ha detto il giudice come un pederasta, però non puoi dare fastidio a mia sorella. Hai finito questa carnevalata? Ma non fa ridere sta roba. Chi se ne frega, un coglione. Hai finito questa carnevalata o no? No, ma è la verità. Hai finito questa carnevalata prima che chiamo il mio avvocato per una cosa grave. Io non voglio chiamare mai nessun avvocato, siccome mi hanno già dato. Va bene. Allora, hai finito questa carnevalata o no? Questa carnevalata sei un coglione, chiaro? Sì. Sì, dillo, sono un coglione. Sì, beh, certo. Sono un coglione. Bene, ciao. Evidente. Arrivederci. Ciao. Under attack, always coming in last, bringing up the bass. No one owes you anything, I think. You need a shotgun blast, a kick in the ass, so paranoid. Watch your back! Allora, Allora, caro David. Sì. Come andiamo? Come andiamo? Come andiamo bene? Immagino che parleremo del nuovo romanzo di Walter City. Che ma no, a quest'ora noi non parliamo mai del nuovo romanzo e di nuovi romanzi. È vero, a quest'ora non avevo visto l'orologio. Mamma mia. No, ma non è quello il punto questo adesso. È l'angolo. È no, l'angolo. Non c'è nessun angolo. Qui no. È un tema importante. La fuga dei cervelli. La fuga dei cervelli. Ah, bene, c'è bene. Una grande emigrazione. Ne parla Confindustria moltissimo. Anche nel prossimo convegno che faranno anche è i vero, giovani. È vero, è vero. Parlano spesso di questo tema centrale della fuga dei cervelli. Ma io parlo sul serio. Cioè, c'è una grande emigrazione, per esempio, verso la Svizzera di recente. Verso la Svizzera. Sì, beh, anche altri paesi. Anche perché altri Svizzera paesi. Perché adesso? Ti dico che Germania. In Svizzera c'è una grande emigrazione di persone italiane, brave persone, che brave ragazze, certo, no, è vero. Che fanno ragazze? Le prostitute, ragazze che vogliono fare le prostitute. Sempre là si finisce. Ma non si finisce, sempre là. È un tema importante, importantissimo. Eccoci, c'è stata un'emigrazione italiana di recente. Certo. Uno dei simboli di questa emigrazione italiana, una persona che in Italia evidentemente non trova spazio, non trova lavoro e va a trovare lavoro legale in Svizzera, si chiama Greta ed è qui in carne e ossa ai nostri microfoni. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, quanti anni hai, Greta? È una trentina. Una trentina d'anni. Siamo sul vago, diciamo, no? Sì, una trentina esatto. d'anni. Senti, in Italia, prima di andare in Svizzera, cosa facevi? Beh, facevo altro, nel senso. Non lavoravo. Facevi la prostituta in Italia? No, esatto. Come lavoravi? In che settori, si può dire? Ma ad esempio lavoravo come barista, che ne so, nel call center, esatto. Ecco, sì. Ma perché hai deciso di andare a fare proprio la prostituta in Svizzera? Perché ti piaceva l'idea? Perché pensavi di guadagnare di più? Che te l'ha offerto qualcuno? Come è successo? No, ma è semplicemente un amico, sapendo quelle che erano le mie problematiche a livello economico, mi ha detto, sai, sono stato in uno di questi locali, le ragazze guadagnano tot e risolveresti i tuoi problemi. Da lì ho cominciato a pensarci. Cioè tu sei arrivata a... Hai visitato uno di questi locali e iniziato subito a lavorare oppure hai fatto un periodo di prova? Sì, io sono andata a vedere con questo mio amico, gli ho detto portami, insomma, e sono andata a vedere come funzionava e sono rimasta molto stupita perché mi aspettavo, non avendo mai frequentato locali del tipo, insomma, non esistendo in Italia, mi aspettavo scene all'Al Capone, narcotrafficanti, che ne so. Adesso non esageriamo. Insomma, nel mio immaginario era così. E invece sono arrivata lì e ho visto tipo una discoteca dove, diciamo, ovviamente i rapporti sono molto più facilitati. Tu fai avanti e indietro in questo momento? Sì, faccio avanti e indietro, il weekend mi fermo lì e poi rientro, insomma. Cioè lavori solo weekend? Sì, io lavoro solo weekend. In Ticino, eh? Esatto, sì. In Ticino. Quanto guadagni più o meno nel weekend? È variabile, possiamo arrivare, insomma, a 1000. Per cui praticamente tu incassi 4000 euro al mese, più o meno? Più o meno, sì. Sì, e quante tasse paghi? Beh, noi paghiamo, dipende dal tipo di soggiorno. Cioè tu hai, sei tutto in regola, hai un permesso? Sì, ovviamente. Come si chiama? Permesso Mignotta, allora, come sì. si chiama? No, non si chiama così, ma è permesso prova, diciamo di 90 giorni. È esattamente uguale a tutti gli altri permessi che si hanno per lavorare in Svizzera. Di questi soldi che guadagni, più o meno, diciamo 4-5 mila euro al mese, quanto paghi di tasse in Svizzera? Allora, nel mio caso io pago ogni 30 giorni di lavoro effettivo 500 franchi alla Svizzera. Cioè praticamente 4.000, 5.000 quasi netti sono. Sì. Quasi netti, ma è incredibile. Non siamo in Italia. No, per carità. Ma quanto la impegna il suo lavoro, diciamo? Cioè, ti fa, Parenzo vuole dire, c'è qualcosa che ti fa schifo in questo lavoro? Sì, o bravo, no? Se volevo dirlo in modo un po' più elegante, ma è giusto. Ma no, devo dire che io mi trovo bene. Cioè, scopare con persone sconosciute che arrivano lì come clienti e non saranno tutti, diciamo, Marlon Brando, diciamo, no? È una cosa che ti ripugna oppure ti sei abituata, non te ne frega nulla, che ne so, grosci? Ma no, diciamo che a volte, cioè, può essere anche entusiasmante, a volte, insomma... Dico io, ci sono i brutti ma buoni, no? Ci sono anche delle sorprese. Cioè, nel senso che più uno è dotato, più ti diverti, anche tu che sei una professionista, o no? Eh beh, sei bravo, più che dotato, diciamo, sì, mi diverto anch'io, ovvio. Bravo, cioè a te proprio ti piace scopare, diciamo la verità. Secondo me questo lavoro va fatto con passione, sennò meglio fare qualcos'altro, insomma. No, questo è vero, però ci sono un sacco di casi che io conosco di persone che lo fanno solo ed esclusivamente, poi smettono, presto, perché se non ti piace scopare smetti presto, automatico, cioè non c'è possibilità. Anche perché funzioni poco. Funzioni cioè, poco. Lungo periodo. Sì, tu sei molto insomma, richiesta? Beh, diciamo che è il mio perché. Ti piaceva scopare anche prima, immagino, no? Sì, assolutamente, questo è ovvio. Cioè, non e sei poi... mai stata una fedele, o no? Oppure sei, oppure... No, assolutamente. Anzi, io nelle storie importanti che ho avuto sono stata anche fin troppo fedele. Non so se lo rifarei, forse perché almeno se le cose vanno male, diciamo che non l'ho presa quel servizio solo io. Però l'ho fatto, anzi, assolutamente. Cioè, però il sesso ti è sempre piaciuto? Sì. Sì, sì, sì. Poi quando ero libera, giustamente, non facevo torto a nessuno. Quindi, insomma, piace divertirmi anche a me. Non facevo torto a nessuno. Che vuol dire? Dottore è andato a prendere piccolo aperitivo perché ha sentito parole brutte, sesso anale. No, cose sesso anale ancora no. Ancora non è arrivato, ma arrivi là il dottore partito. Perché è allora. Brutto. Ma che è brutto. Questo dico, è sempre io, se ci sono tanti gay a questo mondo, un motivo ci sarà. No, questo è interessante. Che vuol dire? Cioè che il sesso anale è bello. Cioè, a te piace il sesso anale? A me piace. Beh, amica mia. Dottore, confermo, uscito definitivo notolna, dottore, confermato. Ho capito, signor Filippino, scusi, ma può un attimo, può richiamare un attimo il dottor Parenzo? Dottore, ha scritto biglietto? Dove ce l'ha scritto? Vedlai che quel polco Cluciani parlerà sesso anale, quindi venuto fuori polcheria, dottore è andato via. Vabbè, d'accordo, ci accontenteremo di parlare io e te. Scusa, va bene, il dottor Parenzo è un signore molto moralista che ogni tanto lascia il telefono al suo Filippino quando sente parlare di sesso, di queste cose qua. Ma dunque non è vero che il sesso anale fa male, come ci ha raccontato una professoressa che è stata ospitata? A me non risulta. A lei non fa nessun dolore? Lei che comunque lo prova? No, no, come dico io a casa la sera torno tutta intera, insomma. Da quant'è che fai la puttana, scusami se te lo dico? Sì, beh, sono quasi 2 anni. Quasi, ne avrei viste di tutti i colori in 2 anni, no? È abbastanza. Ecco, sì. La richiesta più bizzarra che ti hanno fatto che hai dovuto dire di no, oppure non hai mai detto di no? Ma dipende, no, su alcune cose dico di no, perché se comunque tipo, che ne so, gioco la salute. Ah, qualcuno che vuole fare senza preservativo c'è? Esatto, sì, a volte capita qualcuno che chiede, piuttosto dice sono disposto a pagarti, insomma, addirittura quanto vuoi, sì, per farlo senza, ma la gente sì, è matta. Sì, sì, è quello che dico anch'io. Dottore Tolnato, dottore Tolnato. Dottore ancora no c'è, dottore è andato via definitivamente, sentito parole brutte, sesso ma anale, che brutte, bello. Parole bellissime, parole, parole bellissime. Che non piace, dottore, non senti, piace. Senti, comunque a te piace quasi sempre, cioè farai sesso... Devo dire che è una media piuttosto elevata, sì. Cioè ecco, che ne so, un sabato, una domenica in tutto, quanti clienti fai? Una decina in tutto, 15, 20? Dipende, diciamo che il massimo che sono riuscita a fare in un sabato è stato 14. 14? Non sì. C'è stato un momento in cui ti ha fatto schifo questa roba qua? No, perché dovrebbe. No, forse ma che ne so, un po' stanca la sera, in effetti sì. Siamo al fordismo, signora mia, cioè alla pre-regolazione. La cosa fondamentale è che questa ragazza, sesso, questa ragazza, tu che cosa vorresti fare nella vita? Ma per il momento mi va bene così. Capito, cioè non c'è una, cioè hai, non hai un pappo, a me piace questo, cioè sei una libera professionista del sesso, cioè con esatto, tanto di libretto di lavoro e una roba di controlli sanitari, immagino, no? Ovviamente, certo. Ma per carità, ma se mi sembra felice, non c'è il magnaccia, scusa, quindi va benissimo, per la carità, tua famiglia cosa dice? Sono ecco, all'oscuro? Questo è il punto, questo no, è il punto. Ovviamente loro sono all'oscuro, sa qualche amico fidato. Cioè padre e madre non sanno nulla. Eh no. Però come si fa a vivere negando una cosa della propria vita, con i propri più, con le persone più nella care? Vita a volte bisogna dire delle menzogne a fin di bene. Ah, perché anche lei ha la consapevolezza che ferirebbe i suoi genitori, vedi che allora c'è una che non è un moralismo. Non lo so, sì, se no glielo avrebbe detto tranquillamente, dice faccio il postino, faccio il notaio, faccio l'architetto, no, lo piglio in culo, capisci che è diverso, scusa la brutalità. Cosa hai detto ai tuoi genitori? Che fai? Beh, dico che mi occupo di altro, insomma. Sentono la radio i tuoi genitori? No, per fortuna no. Ecco, appunto, no. Vabbè, sì, comunque, la cosa incredibile è che c'è questa migrazione italiana, 20% delle prostitute, è vero che c'è stato un aumento di prostituzione italiana, cioè di persone come te? C'è più diciamo che fino a 2 anni fa non se ne vedevano. Invece? Invece comunque adesso ci sono, tendono ad aumentare, anzi sono anche molto gradite, diciamo che teniamo alta la bandiera italiana, ecco. E gli italiani, i clienti sono la maggior parte? Sì, il 95% sono italiani. Che maiali che siamo, David. Beh, sì, questo che maiali, una cosa pazzesca. 95%, cioè l'Italia sta praticamente dando alla Svizzera un sacco di lavoro. Cara Greta, ti abbraccio, ciao. Ciao, bene, cara. Ciao a tutti. Buon lavoro, signora, buon grazie, lavoro. Ciao, ciao. Ciao, Cruciani. Puoi fare esorcizzare mio marito da Asmodeo, per favore? Grazie, vi pago! Asmodeo, vai via! Una signora va dal ginecologo per farsi visitare. La signora ha avuto 4 mariti. Il ginecologo si accorge che questa signora è ancora vergine. Dice: signora, Ma com'è possibile che lei è ancora vergine avendo avuto 4 mariti? Vede, il primo era un pianista e usava solo le mani. Il secondo era un avvocato e usava solo la lingua. Il terzo era di Forza Italia, solo promesse. L'ultimo, dell'Ulivo, solo inculate. Richard mio, quanto ti amo. Ma chi, Richard, ma che roba, Richard Benz. Ma che roba, sì, ho capito. Quanto la lo amo. Quando ho raccontato amo, queste, questa novella. Sono Richard Benson. Allora, dove andiamo? Enrique dal Brasile. Enrique, vai. Vai. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Dimmi, dimmi. Vorrei dirvi che qui in Brasile noi mangiamo tutti i tipi di carni, tutti i tipi. Noi mangiamo delle capifarre. Noi mangiamo sarà bene sto brasiliano, sarà bene sto brasiliano. Giacare, noi mangiamo tutti i tipi. Brasiliano tarocco, questo brasiliano qui. Tarocchino. Un brasiliano un po' napoletano, questo qui. Non si offendono i napoletani. Un brasiliano un po' napoletano. Qui alla mia città noi abbiamo. Sì, quale città, amico mio? Rozzano, quale città? Garbagnate milanese. Bell'Orizzonte. Sì, però, Bell'Orizzonte, però... Bell'Orizzonte di sta minchia, Bell'Orizzonte. Vabbè, dai. Quella adesso sai. Dai, quello, su. A Bell'Orizzonte lo dico io, bello. L'orizzonte è quello che ti mando a fare in culo. La realtà è esatto, questa. Sì, l'orizzonte sì. Prossimo sì, te lo è meriti, che ti mando Enrique. A fare in culo. Dai, su. Chiudere, chiudere tutto. Davide da Parma, aspetta, Davide da Parma. Chiudere, dai. Chiudere, caduto, chiudere. Aspetta, un altro. È Mario caduto, da Roma, no, Massimo da Rovigo, dai. Dai, cadono tutti, dai, sono caduto. Io sono di Rovigo e non mi intrigo, dice sempre Razzi. Dice sempre Razzi. Non so perché. Di Rovigo non mentre. Massimo, dimmi. Dai, dimmi. Secondo me la Boldrini è ignorante perché non sa che le agnelline non vengono ammazzate. Sono solo gli agnelli maschi perché da grandi diventano montoni e si ammazzano tra di loro. Quindi salvare le agnelle è come pulirsi il culo senza avere. Erano già salve. Sì. Metafora di questo signore. Come pulirsi, allora, vabbè. Voglio dire due cose. Uno, sono orgoglioso di lavarmi poco. Sono orgoglioso di farmi pochi shampoo a settimana. Aspetta, no. Sono orgogliosissimo di aver partecipato a un programma. Orgogliosissimo di aver partecipato a un programma che si chiama Bianco e Nero, condotto da Luca Telese. Bravo. Non orgogliosa, orgogliosissimo. Bravo, ti fa onore. Bravissimo. Orgogliosissimo di aver partecipato come ospite a quel programma e sono orgoglioso di fare 2 shampoo a settimana al massimo e anche di lavarmi non tantissimo. Sono molto orgoglioso di questo. Ciao ragazzi, a domani. Ciao. Sei Asmodeo, sei. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica, casa, lo, dica lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. Libera la voglia di fare.